60. Semolino di magro. Questa minestra non si può a tutto rigore dirsi di magro se c'entrano le uova, il burro e il parmigiano, ma può venire opportuna quando manca il brodo. Cuocete il semolino nell'acqua e prima di levarlo dal fuoco salatelo. Scioglietevi dentro un pezzo di burro proporzionato alla quantità del semolino ed aggrassiatelo con un poco di sugo di pomodoro o conserva. Disfate nella zuppiera 2 o 3 uova miste a parmigiano grattato e versateci il semolino. Se trattasi di minestra per una persona soltanto, può bastare un solo rosso d'uovo con 2 cucchiaiate di parmigiano.